manna stare, o verugava te, la manna trovella te. E 18 e 27 minuti primi in ascolto dai microfoni di Radio Default, andiamo in onda con Radio Cufia, la trasmissione purtroppo solo di aggiornamento dalla Palestina occupata, arrivata ormai a quasi un mese di attacco e bombardamenti sionisti. Ricordiamo velocemente i contatti della radio, www.radiodefault.it per leggere il nostro palinsesto, leggere delle nostre iniziative e trovare appunto i podcast delle nostre trasmissioni, mentre potete seguirci sulla nostra pagina Facebook Radio Default per essere aggiornati in tempo reale su ciò che avviene su ciò che trasmette questa radio in tempo reale appunto e essere anche aggiornati su ciò che avviene nel mondo. Inoltre vi ricordiamo che potete sempre passare negli studios di Genzano di Roma, a via Guidobaldi 56, dove potete incontrare la redazione, venirci a trovare anche in trasmissione e magari se ci portate un caffè tutto di guadagnato e quindi sostenere magari questa radio economicamente, visto che non gli unici soldi che ci arrivano sono quelli degli ascoltatori e delle ascoltatrici che ritengono che questo sia un progetto utile di controinformazione. Quindi siamo arrivati all'ennesima giornata di repressione sionista contro la Palestina, quasi un mese di bombardamenti contro la striscia di Gaza, mentre due mesi a partire dalla campagna, da quando è partita la campagna di repressione contro, a seguito della cattura nella colonia di Gush Etzion di tre coloni, da parte di alcuni membri della resistenza, e il conseguente loro abbattimento. Diamo purtroppo gli aggiornamenti sul conto dei martiri. 1886 sono i palestinesi caduti nella striscia di Gaza in questi bombardamenti che sono appunto iniziati l'8 di luglio, quindi stiamo a 29 giorni. L'aggiornamento è delle 11, e la prendiamo dal quotidiano libanese Al-Akhbar, che sta tenendo il conto delle vittime insieme al Ministero della Salute di Gaza. Quindi 1886 palestinesi martiri, di cui 432 avevano meno di 18 anni. Secondo il Ministero della Salute sono più di 60 le famiglie massacrate, ormai si è smesso anche di contarle, specialmente dopo l'aggressione alla città di Rafah, avvenuta in seguito alla presunta cattura di un soldato sionista da parte delle brigate Sedin al-Qassam, soldato che a quanto pare poi sia stato poi ucciso poi proprio dai bombardamenti sionisti sulla striscia. Quindi più di 60 famiglie massacrate, l'80% dei martiri erano civili, quindi nessun appartenente a gruppi armati in quel momento, appunto con le armi in mano. La vittima più giovane è Mustafa Wail al-Ghul, di 24 giorni, che è stato ucciso insieme a 8 membri della sua famiglia a Rafah. Mentre le altre 4 vittime più giovani sono Rizka Butaha, di 2 mesi, Mohammed Anas, di 4 mesi, Fares Jomah al-Mamoum, di 5 mesi, e Samaha Nail al-Barawi, di 8 mesi. Mentre la vittima più anziana era Mohammed Mazen Faraj Daer, che è morto il 31 luglio a 99 anni. Ovviamente la lista dei martiri, che ricordiamo essere persone e non solo numeri, la potete trovare sul quotidiano libanese Al-Akhbar, english.alakhbar.com. E ovviamente in questi giorni di tregua stanno venendo recuperati altri corpi dalle macerie delle città e dei quartieri bombardati. Molti di questi sono ancora sono ancora ignoti, non si è riusciti a risalire alla loro identità, per quello ci vorranno dei giorni ancora. E quindi il nostro appello è, prima di impararsi a memoria il nome di un soldato rapito o ucciso, ricordiamoci sempre di imparare prima a memoria i nomi dei 1886 martiri, la cui unica colpa è stata quella di vivere nel posto sbagliato al momento sbagliato, di essere profughi e di con la loro esistenza di ribadire l'esistenza di un popolo che dal 1948 è stato espropriato delle proprie terre e che chiede ancora chiede fermamente il proprio diritto al ritorno, all'autodeterminazione e all'indipendenza. Dalla nostra ultima trasmissione ci sono stati degli aggiornamenti. Infatti lunedì sera, poco dopo appunto la nostra trasmissione, è stata annunciata una tregua umanitaria unilaterale di 72 ore, con il conseguente ritiro delle truppe di terra dalla striscia di Gaza. Il cessate il fuoco è iniziato alle 8 del mattino di martedì. Poco prima alcuni ali della resistenza hanno lanciato dei razzi contro i territori palestinesi occupati nel 1948, la cosiddetta Israele. E contemporaneamente c'è stato anche l'ultimo bombardamento sulla striscia di Gaza. In questi giorni stanno avvenendo i colloqui diplomatici, le trattative indirette al Cairo, trattative mediate dall'intelligence egiziana, come al solito. A queste trattative la resistenza palestinese è arrivata con una posizione unitaria, si richiede la fine dell'assedio contro Gaza, il ritiro delle truppe di terra dalla striscia, la costruzione di un porto e la ricostruzione dell'aeroporto della striscia, la liberazione dei detenuti politici palestinesi e l'estensione dell'area di pesca che ricordiamo essere stata imposta unilateralmente dal governo sionista a 3 miglia nautiche. Questo significa non riuscire a pescare, molto spesso anche i pescatori si sono ritrovati attaccati o rapiti anche se stavano ben al di dentro delle 3 miglia nautiche, e quindi si chiede l'estensione alle 12 miglia nautiche della possibilità di pescare e comunque di andare in barca. L'entità sionista ha dichiarato che di non voler né la costruzione del porto né dell'aeroporto, ha dimostrato una maggiore flessibilità sugli altri punti però chiede come condizio sine qua non la demilitarizzazione completa della striscia di Gaza. Ovviamente le ali della resistenza, le fazioni palestinesi non sono assolutamente d'accordo con la accessione delle armi, ovviamente non vedremo perché dovrebbero essere d'accordo, visto che sono gli unici strumenti di deterrenza che la popolazione palestinese possiede, sia per far rispettare gli accordi che Israele puntualmente non rispetta, sia perché sono uno dei pochi strumenti che hanno per portare avanti quella lotta che finirà solo con il ritorno dei profughi e la possibilità e l'autodeterminazione per il popolo palestinese. Inoltre Israele ha dichiarato di voler estendere per altre 72 ore il cessate il fuoco, che dovrebbe finire domani alle 8 del mattino, martedì alle 8 del mattino, e ovviamente le ali della resistenza hanno dichiarato che non considerare questa nuova di non voler considerare valido nessuna decisione unilaterale di cessate il fuoco, ma bisogna arrivarci tramite una mediazione. In tutto questo l'entità sionista ieri ha violato il suo proprio cessate il fuoco. Infatti ieri mentre si era arrivati al secondo giorno di tregua e i funzionari del governo palestinese stavano visitando i luoghi bombardati, sia per tirare fuori i corpi dei martiri, sia per fare delle stime sui danni, su ciò che è avvenuto, visto che i quartieri bombardati non potevano nei quartieri bombardati non potevano intervenire né le ambulanze né i vigili del fuoco né tantomeno delegazioni ufficiali. Lo staff della municipalità di Gaza stava visitando il quartiere di Shujaia, che ricordiamo essere stato vittima la settimana scorsa di un eclatante massacro che ha portato a un centinaio di martiri, un quartiere densamente popolato, bombardato senza alcun ritegno e quasi completamente raso al suolo. Insomma, stavano visitando il quartiere per la prima volta per fare appunto un'ispezione del parco e del quartiere, quando gli è stato sparato dall'esercito sionista che era appostato al confine. E l'ufficiale, il funzionario della municipalità di Gaza, ha dichiarato che non loro hanno alzato le mani, non gli è stato per far vedere che erano disarmati, gli è stato cominciato a sparare addosso. E ha dichiarato che sono sopravvissuti soltanto per miracolo. E incidente, tra l'altro, confermato dai portavoci dell'esercito sionista. Quindi noi ci facciamo una piccola pausa musicale e ritorniamo fra 5 minuti in onda. يحارب ويتفك الجرح رفيقه وفراكك يا جبريل ابد ما بعطيكو يحارب ويتفك الجرح رفيقه وفراكك يا جبريل ابد ما بعطيكو Cibara. من القسامين البحش قاتل معاهم رافضيلي وحد دمهم مع دم القسامين البحش قاتل معاهم رافضيلي من حارة لحارة انتقال الخبر وسرارة من حارة لحارة انتقال الخبر وسرارة E ritorniamo in onda con Radio Cufia, la trasmissione di aggiornamento e analisi sulla Palestina occupata. 29 giorni di aggressione sionista contro la striscia di Gaza, che ora sta vivendo un cessate il fuoco di 3 giorni, che dovrebbe terminare domani mattina. Aggressione che ha visto la distruzione, oltre che il grande massacro di civili, anche il tiro al bersaglio sulle infrastrutture economiche e produttive della già martoriata striscia di Gaza. Abbiamo parlato l'altro giorno della distruzione di una delle più grandi fabbriche di dolci e gelati, pericolosissimi dolci e gelati, oltre che ospitante due pericolosissimi convogli di medicinali abbastanza rari. Le stime attuali, secondo il ministro dell'economia Amro, i danni vanno dai 4 ai 6 miliardi di dollari statunitensi su un prodotto interno lordo medio della striscia di Gaza annuale di poco meno di 2 miliardi di dollari. Ovviamente questi calcoli sono assolutamente a ribasso in quanto stanno ancora cercando stanno ancora facendo la conta dei danni e si vedrà se continueranno, se domani continuerà il cessato il fuoco. Ovviamente questi calcoli riguardano unicamente i danni economici diretti, quindi tutti i danni economici indiretti dovranno essere calcolati in seguito per approssimazione. Ricordiamo soltanto che è stato distrutto l'unico generatore, l'unica centrale elettrica della striscia ormai la settimana scorsa, tra l'altro centrale elettrica che verrà che è stata assicurata dal governo statunitense, lo stesso che dà le bombe agli israeliani per distruggere le cose, quindi insomma questa qua è una bella gatta da pelare per gli Stati Uniti. Ovviamente i danni economici non riguardano unicamente, cioè riguardano le abitazioni, riguardano le industrie, riguardano i campi coltivati, ma riguardano anche i pozzi e i sistemi sanitari. In un comunicato la Confindustria palestinese ha dichiarato che in questo mese sono state bombardate 134 industrie, 134 fabbriche, che sono andati quindi a dare. I sionisti hanno fatto un serio danno all'economia già fragile della striscia, che era vittima, che ha visto appunto la distruzione dei siti produttivi sia nell'offensiva del 2012 sia nell'offensiva del 2008. E quindi il danno, danno calcolato ancora per approssimazione in questo mese solo al settore privato è di circa 70 milioni di dollari. E ovviamente distruggere un mese di bombardamenti significa fabbriche che rimangono chiuse se non vengono bombardate, e questo ha significato la mancanza di un salario per oltre 30.000 lavoratori. E questa è una l'attacco al settore industriale, abbiamo visto che è una costante nelle aggressioni sioniste, che possono essere i bombardamenti sulla striscia, ma possono essere anche le operazioni di chiusura delle strade nella West Bank. Mentre il ministro dell'agricoltura ha dichiarato che nel settore agricolo sono stati fatti circa 200 milioni di danni, 150 alle coltivazioni, che sono state bombardate in quanto accusate di essere siti di lancio per i razzi della resistenza, e ovviamente ciò non tiene conto dell'inquinamento che poi le armi sioniste producono ai terreni della striscia, visto che fanno un grande uso di gas, fosforo bianco e di obici di mortaio all'uranio impoverito. Mentre 40 milioni di dollari sono stati causati di danni sono stati causati alle greggi, è stato bombardato ad esempio il secondo pollaio più grande della striscia, il più grande era stato bombardato nel 2008 e la commissione d'inchiesta dell'ONU aveva dichiarato che è stato bombardato in maniera assolutamente gratuita, mentre altri 10 milioni sono stati causati al settore ittico, che già soffriva appunto la chiusura di fatto il blocco navale che va avanti dal 2007. In tutto questo la crisi economica si assomma alla crisi umanitaria, perché 30 giorni di distruzione delle abitazioni ha portato a un quarto della popolazione della striscia ad essere di nuovo profuga all'interno della striscia senza possibilità di uscire. E quindi i rifugi, quindi le scuole, gli ospedali e via dicendo, sono attualmente in sovrappopolazione. Sovrappopolazione, ovviamente i rifugi sovrappopolati, dei rifugi che non servono a ripararsi dai bombardamenti sionisti, non sono assolutamente come i rifugi che potete ammirare nell'entità sionista, dotati di tutti i comfort, sono delle scuole che se vengono bombardate crollano in testa a chi ci sta dentro, come è già successo già 4 volte in questa offensiva, come è successo anche durante Piombo Fuso. E oggi il problema è prettamente sanitario. Prendiamo un lungo reportage di Sanaa Kamal pubblicato sul quotidiano libanese Al-Akhbar. Ovviamente chi è malato non è in grado di curarsi perché gli ospedali sono pieni, c'è una sovrabbondanza di infezioni della pelle e piccole malattie che se non curate potrebbero essere possono aggravarsi ovviamente e diventare fatali. Una semplice influenza, una tonsillite può portare a serie conseguenze, e in tutto questo c'è il problema dell'igiene pubblica, in quanto quegli eroi dell'esercito sionista si sono premurati di distruggere i sistemi di pompaggio, di depurazione delle fognature. Questo significa che la gente della striscia si caga e si piscia non viene né depurato né smaltito, ma rimane là. Sono stati bombardati i pozzi delle acque, acqua già non propriamente bevibile, però che almeno poteva essere utile per farsi una doccia, e nemmeno quello c'è più. Oltretutto, calcolando che la distruzione della centrale elettrica ha portato anche al mancato funzionamento delle pompe di sollevamento, E oltretutto, problema che sta affrontando anche Roma, ma che ovviamente la striscia di Gaza vede decuplicato, è l'impossibilità di raccogliere l'immondizia per le strade. Ricordiamo che la striscia di Gaza è la zona del mondo con la più alta densità di popolazione, quasi 2 milioni di persone in poco più di 600 km quadrati, che producono tanta monnezza e ovviamente in 29 giorni di bombardamenti e di aggressione indiscriminata contro i civili nessuno andava a ritirarla dalle strade, anche se ad esempio a Khan Yunis è stato avviato un centro di riciclaggio che è all'avanguardia pure rispetto agli standard del Lazio, che ci vuole poco, non stiamo dicendo che il settore di riciclaggio di Gaza sia così avanti, ma sta sicuramente più avanti rispetto a noi, e questo significa che dall'inizio dell'offensiva si sono accumulate per le strade circa 30.000 tonnellate di immondizia con le ovvie con i ovvi problemi conseguenze sul piano igienico. In tutto questo, prima del nostro secondo stacco musicale, un'altra conseguenza che non è né economica né sanitaria, ma è prettamente umana e politica. Infatti, durante l'aggressione, ovviamente, sono stati catturati dei palestinesi, alcuni militanti della resistenza, alcuni semplici cittadini, ma il ministro per gli affari dei detenuti, Shawki Al-Ayasa, ha dichiarato che sebbene l'entità sionista abbia dichiarato di aver catturato circa un centinaio di palestinesi della striscia, non è stata data ancora nessuna informazione né al suo ministero né alla Croce Rossa sulle loro identità né su dove sono stati rinchiusi e né tantomeno sulle loro condizioni di salute. Ricordiamo che prima dell'inizio della campagna di repressione, due mesi fa, c'erano 5.000 detenuti politici palestinesi. Dopo due mesi il numero è salito a 6.000, che si sappia, ma di questi catturati nell'ultimo mese a Gaza, appunto, non si è saputo nulla. E ovviamente il ministro fa appello alle organizzazioni internazionali e soprattutto al Comitato Internazionale per la Croce Rossa per intercedere, visto che questo è il loro ruolo. La Croce Rossa dovrebbe occuparsi anche dei cosiddetti prigionieri di guerra, anche se là non c'è una guerra, e ovviamente noi chiediamo a gran voce che venga resa nota l'identità dei palestinesi catturati in questi giorni. Vi lasciamo a un altro stacco musicale e ritorniamo fra 5 minuti. ما بنموت ما بنموت ritorniamo in onda con Radio Cufia, la trasmissione solo purtroppo di aggiornamento dei due mesi di repressione contro la Palestina occupata e un mese di bombardamento incessante contro la striscia di Gaza. Lasciamo la cruda cronaca per leggere qualche corrispondenza dal campo. Vi leggiamo dei pezzi di un articolo di Asma Al-Ghul, il cui cognome ricorderete, l'abbiamo nominato prima, era il bambino, il più giovane martire di questa offensiva, martire dopo soli 24 giorni di vita. E Asma Al-Ghul, giornalista per il quotidiano panarabo Al Monitor, che ha scritto un articolo sul massacro della sua famiglia, che è una delle più di 60 famiglie che sono state completamente eliminate dalla genealogia palestinese a seguito dell'attacco, di questo mese di attacco. La traduzione è stata pubblicata sull'agenzia di stampa Arab Press, ed è a cura di Marta De Marino. Inizia con: sono scoppiata in un pianto senza fine quando il 3 agosto ho ricevuto la telefonata che mi informava della caduta di due missili F-16 sulla città di Rafah. Mio zio Ismail Al-Ghul, 60 anni, non era un membro di Hamas. Mia zia Kadra, 62 anni, non era militante di Hamas. I loro figli Wail, 35 anni, e Mohammed, 32 anni, non erano combattenti di Hamas. Le loro figlie Hanadi, 28 anni, e Asma, 22 anni, non si erano schierate con Hamas. Neanche i miei cugini, Ismail, 11 anni, Malak, 5 anni, e il piccolo Mustafa, di 24 giorni, erano membri della Jihad Islamica, il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, o di Fatah. Sono tutti morti in un bombardamento israeliano che ha colpito la loro casa alle 6:20 di domenica mattina. La casa si trovava nei dintorni di Hibna, nel campo per i rifugiati di Rafah, ed aveva il tetto fatto di sottili lamine di amianto, che per essere distrutta ci vuole ben poco, e non due missili F-16. Qualcuno può gentilmente informare Israele che le case dei rifugiati palestinesi di Rafah possono essere distrutte, i suoi inquilini uccisi soltanto con una piccola bomba, e che non hanno bisogno di spendere miliardi per spazzarli via? Se è Hamas che odi, voglio dirti che gli uomini che stai uccidendo non hanno nulla a che fare con Hamas. Sono donne, bambini, uomini che vogliono la fine della guerra, vogliono tornare a casa dalle famiglie e vivere la loro vita. Ma vorrei anche garantirti che ora quelle donne, quegli uomini e bambini sono diventati lealisti di Hamas. Ora capisco l'importanza delle foto dei corpi. Non servono solo all'opinione pubblica, ma soprattutto alle famiglie, alla disperata ricerca dei loro cari. Come loro, anche io ho scovato le foto dei miei parenti sui social network. I corpi dei miei cugini erano conservati in un freezer per gelati, mentre altri corpi erano ammassati in congelatori per la frutta e la verdura. In quelle foto di morte, quei corpi sono stati liberati dalla paura della guerra e la mia famiglia sembrava in pace, con gli occhi chiusi, come se stesse dormendo. Io sono nata nel 1982, nella stessa casa, nei dintorni di Hibna, sono cresciuta lì e ho visto la prima intifada, la resistenza, la mia prima scuola. Lì ho visto il mio primo soldato israeliano della mia vita strattonare mio nonno per costringerlo a cancellare degli slogan che adornavano le mura della casa. Ora quelle mura, quei ricordi e quei bambini sono stati spazzati via, i sopravvissuti sono persi. Non parlatemi di pace mai più. E questa, insomma, è una considerazione personale di una giornalista che appunto ha vissuto sulla propria pelle il carattere genocidario della repressione israeliana di questo mese, e oltretutto ricordiamo appunto che è oggetto della campagna di repressione in questo mese è appunto sono i civili. Ricordiamo l'80% dei morti, dei 1886 morti di questa ondata di repressione sono civili, di cui 432 hanno meno di 18 anni, e che sono più di 60 le famiglie che sono state quasi completamente cancellate dalla genealogia palestinese. E ora andiamo a leggere un altro articolo pubblicato su Electronic Intifada, La scorsa trasmissione parlavamo del fatto che erano state bombardate tutte le università della Striscia di Gaza con la scusa di ospitare laboratori di ricerca per le armi di Hamas. Ricordiamo sempre che i razzi di Hamas sono fatti con i tubi innocenti e un po' di esplosivo, quindi non c'è bisogno di un'università per studiare queste complesse armi di distruzione di massa. Semmai queste dichiarazioni sono armi di distrazione di massa dell'esercito sionista. Questo è un articolo di Rami Halmegari, giornalista che ha studiato all'università di l'Università Islamica di Gaza. E andiamo a tradurre velocemente al momento dall'inglese, speriamo di non fare troppi strafalcioni. Israele attacca la mia università con bombe e bugie. Sabato l'apparato militare israeliano ha bombardato un centro di sviluppo per le armi all'Università Islamica di Gaza. Io insegno giornalismo in questa università. La sezione del campus dove lavoro è chiusa al dipartimento amministrativo, cioè l'oggetto degli attacchi, dell'attacco all'alba di Israele. Il dipartimento ospita le proprietà personali del corpo docente e docenti di medicina, letteratura, ingegneria, commercio ed altri. Non ci sono centri per lo sviluppo delle armi. Al contrario di ciò che afferma Israele, le università di Gaza non hanno dipartimenti dedicati alla ricerca militare o all'addestramento militare. Questo è in contrasto con le università israeliane, che giocano un ruolo in una parte integrante nell'occupazione militare e nello sviluppo delle armi, ed hanno attivamente promosso il massacro a Gaza. L'attacco sull'Università Islamica di Gaza, così come l'invasione da parte delle forze d'occupazione dell'Università di Bir Zeit in West Bank lo scorso giugno, è stata condannata dall'American Studies Association che ha votato a favore del boicottaggio accademico di Israele in un dibattito all'interno dell'organizzazione che è finito anche nei media mainstream. Legata ad Hamas? L'Università Islamica di Gaza è considerata da molti qua una delle migliori università e ha approssimativamente 20.000 studenti. I giornali occidentali hanno dichiarato che l'IUG, l'Università Islamica di Gaza, era legata ad Hamas e ciò dimostra una profonda ignoranza. L'IUG è stata fondata nel 1978, mentre Hamas è nata soltanto un decennio dopo. Alcuni studenti ovviamente sono membri di Hamas, altri sono affiliati a Fatah, altri al Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, al Jihad Islamico o altre fazioni palestinesi. Agli studenti che vivono sotto occupazione militare non è permesso essere attivi politicamente? Le insinuazioni della stampa occidentale che Hamas controlli tutte le attività dell'università non riflettono la realtà. Negli scorsi 6 anni ho insegnato agli studenti come utilizzare la lingua inglese nei media e ho lavorato per il Dipartimento di per la Facoltà Pedagogia dell'Università, anche conosciuto come Community Development Institute. All'inizio ho esitato ad unirmi all'IUG, avendo paura di dover sottostare a delle strette regole politiche o religiose. Io non sono affiliato ad alcun partito e mi considero come un musulmano estremamente moderato. Ma ne sono rimasto sorpreso. Nel 2008 sono stato convocato per un'intervista, per un colloquio con il decano della facoltà di pedagogia e da due insegnanti di inglese e il colloquio ha avuto successo. Il decano e i suoi colleghi non sembravano avere problemi con il mio lavoro per i media statunitensi, incluso tra cui Free Speech Radio News e The Electronic Intifada, da cui stiamo appunto leggendo l'articolo. E sono stati molto cordiali verso di me e mi hanno fatto sentire a mio agio. Così ho cominciato a dare lezioni all'università. Durante le mie prime lezioni ero sorpreso dal numero di studenti che ho incontrato. Qualcuno di loro l'ho conosciuto prima a quanto ne sappia io, nessuno di loro era attivo dentro Hamas o si considerava un islamista. Io ho avuto anche molte discussioni, molte belle discussioni con i miei nuovi studenti. All'epoca ero apertamente critico sia di Hamas a Gaza che dell'autorità palestinese nella West Bank occupata. Avevo parlato uniformi blu di Gaza, cioè il colore delle uniformi della polizia nella striscia, dei ricevimenti col tappeto rosso che si possono aspettare i visitatori nella West Bank. Scherzavo molto sulle politiche di Hamas e sui comportamenti sulle politiche di Hamas e su come l'autorità palestinese si comporta nel suo tentativo di far passare l'idea di star costruendo uno Stato indipendente. Nemmeno una volta l'amministrazione dell'università ha provato a censurarmi e nemmeno una volta le autorità di Gaza guidate da Hamas mi hanno chiamato per interrogarmi. Distruzione delle vite. L'amministrazione dell'università mi è stata sempre di aiuto e di incoraggiamento. Hanno facilitato molte mie iniziative, come invitare alcuni miei contatti fuori da Gaza per parlare agli studenti via Skype. E l'università era stata bombardata da Israele nel dicembre 2008 durante l'operazione Piombo Fuso, un attacco di 3 settimane sulla striscia. Questa offensiva è stata anche una risposta al terrorismo, secondo la narrazione israeliana. L'American Studies Association ha giustamente osservato che il bombardamento dell'università palestinese non è soltanto un abuso della libertà di ricerca, ma è anche un tentativo di farci usufruire delle necessità di base di cui abbiamo bisogno, cioè dell'istruzione. E quindi questo qua è l'articolo pubblicato da Rami Almegari su Electronic Intifada. Noi facciamo un altro stacco musicale e ci sentiamo fra qualche minuto. Hello! يابا ونصرها والله بصلاة الدعاء في شعر ونصرها نصرها على الرفيق أحمد سعدات بالضبي وغزي لك نصرها لك مغاب النصر إلا ونصر جاها لاح العلم الأحمر لاح لاح لاح من رام الله للشياح الله الله جبهاوي وبإيده سلاح سلاح سلاح جيش العامل والفلاح الله الله لاح العلم الأحمر لاح نهج الثور السليم هيك علمنا الحكيم وعن نهج الثور السليم حيوا حكيم السلام حيوا حكيم السلام أمين الجبهة الشعبية لاح العلم الأحمر لاح لاح هيك علمنا ابو علي يشرح ويداوي. حي ابو علي السلام، حي ابو علي السلام، قمر الجبهه الشعبيه. ولما استحق احترام شعبنا شهدائي نقابتي اطفالي وشيوخي ونسائي، اذا لم يكن شعارنا العين بالعين والسن بالسن والراس بالراس. هيك علمنا سعدات قتل الوزراء في القتلات، هيك علمنا سعدات قتل الوزراء في القتلات. حيوا سعدات السلام، حيوا سعدات السلام، أمين الجبهة الشعبية. لاح العلم الأحمر لاح لاح لاح، منها الله للشياط الله الله، شبهاوي بيد سلاح سلاح سلاح، جيش العامل والفلاح الله الله. هيك علمنا غسان والهدف في كل مكان، هيك علمنا غسان والهدف في كل مكان. حيوا غسان السلام، حيوا غسان السلام، أديب الجبهة الشعبية. لاح العلم الأحمر لاح لاح لاح، من رام الله للشياط الله الله، شبهاوي بيد سلاح سلاح سلاح، جيش العامل والفلاح الله الله. هيك علمنا وديع طيارة للجميع، هيك علمنا وديع والطيارة للجميع. حيوا وديع السلام، حيوا وديع السلام، صقر الجبهة الشعبية. لاح العلم الأحمر لاح لاح لاح، من رام الله للشياط الله الله، شبهاوي بيد سلاح سلاح سلاح، جيش العامل والفلاح. علمنا جيفارة مستعمر دمر أوكارا، هيك علمنا جيفارة مستعمر دمر أوكارا. حيوا جيفارة السلام، حيوا جيفارة السلام، شهيد الجبهة الشعبية. لاح العلم الأحمر لاح لاح لاح، من رام الله للشياط الله الله، شبهاوي صور العملاء عصر. هيك علمنا النسر نعصر العملاء عصر. حيوا معين المصري، حيوا معين المصري، نسر الجبهة الشعبية. لاح العلم الأحمر لاح لاح لاح، من رام الله للشياط الله الله، شبهاوي بيد سلاح سلاح سلاح، جيش العامل والفلاح الله الله. العلم الأحمر لاح لاح لاح، من رام الله للشياح الله الله، جبهاوي وفيد سلاح سلاح، جيش العامل والفلاح الله الله. E ritorniamo in onda con Radio Cufia, la trasmissione di aggiornamento purtroppo dalla Palestina occupata, edizione speciale per coprire per dare gli aggiornamenti su ormai 2 mesi di attacco alla Palestina occupata, 1 mese in West Bank e l'ultimo mese di bombardamento incessante sulla striscia di Gaza. Ritorniamo, cioè passiamo ora agli aggiornamenti appunto la Palestina, le altre regioni della Palestina, la West Bank e i territori occupati nel 1948. Leggiamo un comunicato della Società dei Prigionieri Palestinesi che ha dichiarato che nella prima settimana di agosto sono stati arrestati 120 persone. Alcuni sono stati vengono da Hebron, altri da Gerusalemme, Ramallah, Albire, Jenin, Betlemme. E questa è la queste campagne prevedono ovviamente la chiusura dei centri abitati e la perquisizione e la devastazione delle case degli arrestati, compreso anche il furto dei beni personali. Non è una novità, sono stati arrestati due mesi fa dopo la cattura e l'abbattimento dei tre coloni dalla colonia di Gush Etzion. È stata avviata una campagna, la cosiddetta Bring Back Our Boys, una campagna di repressione molto forte che ha portato in un mese all'arresto di oltre 1000 palestinesi, prevalentemente dalla città di Al-Khalil, Hebron. Ovviamente tutto questo, un migliaio di arresti, circa una decina i martiri, prevalentemente giovanissimi, arresti che sono stati fatti in concomitanza con il silenzio assenso e la cooperazione della cosiddetta polizia palestinese, quella della polizia dell'autorità nazionale palestinese, che dal 93, ma soprattutto dalla fine della seconda intifada, porta avanti un coordinamento sulla sicurezza con la polizia e le forze della repressione sionista. Ovviamente non è tutti sanno che in Palestina se ti ferma o se ti arresta la polizia palestinese, dopo poco sai che ti verrà a bussare alla porta la polizia sionista. E ovviamente questo qua è uno dei vari frutti avvelenati degli accordi di Oslo, su cui i palestinesi ancora manifestano e ancora chiedono la cessazione di questo protocollo sulla sicurezza. Leggeremo nei prossimi giorni un articolo molto interessante di un compagno che ha studiato qua in Italia, Tariq Dana, che parlava appunto, faceva una storia della repressione, dell'apparato repressivo della cosiddetta autorità palestinese. Non si sa di cosa autorità, perché non riesce manco a governare il suo territorio. Certo, i palestinesi li reprime molto bene, anche se appunto due mesi fa, mentre i giovani di Ramallah protestavano per l'ennesimo martire perito a seguito anche di questo accordo di cooperazione, di collaborazione, c'è stato un assalto alla sede della polizia di Ramallah. I manifestanti sono riusciti quasi ad entrare all'interno della stazione di polizia, se non che la polizia ha cominciato a sparare contro appunto i propri stessi cittadini che vivono nella stessa medesima occupazione, e hanno continuato a sparare finché non sono arrivate le jeep sioniste a proteggere la sede. Sempre dalla West Bank ci arriva la notizia tramite l'International Solidarity Movement di un bambino di 10 anni a cui è stato sparato al petto sabato 3 agosto. Un bambino palestinese di 10 anni stava tornando a casa vicino all'insediamento illegale di Kiryat Arba quando l'esercito israeliano gli ha sparato sul petto con delle munizioni vere. C'è una grossa differenza tra le cosiddette pallottole di gomma o pallottole cosiddette di gomma e le munizioni vere, che sono quelle proprio dei fucili. Il giorno dopo i volontari dell'ISM sono andati a visitare il giovane all'ospedale Al-Mizan. il giovane era in condizioni critiche, anche se i dottori erano stati in grado di salvargli la vita, il proiettile era rimasto nel suo polmone sinistro perché era troppo pericoloso rimuoverlo. E c'è la foto della radiografia. Suo padre ha dichiarato che un suo parente ha assistito alla scena. E c'era un uomo che a sparargli è stato un uomo in uniforme senza alcun motivo visibile. E questo è ovviamente una delle di quelle situazioni che a Al-Khalil succedono spesso. Ricordiamo che Al-Khalil ha visto la prima colonizzazione religiosa all'interno della città e che vivono attualmente dei coloni tra i più estremisti e potremmo dire nazisti, protetti dall'esercito che ovviamente guarda da un'altra parte quando a commettere gli atti di violenza sono i coloni, ma si premura molto di reprimere i palestinesi quando reagiscono all'invasione della propria città. Passiamo invece alla Palestina occupata nel 48, dove appunto abbiamo notizia del primo martire dall'inizio della repressione. La persona in questione è un ragazzo giordano, un uomo giordano di 39 anni, Wail Salim Mustafa, che la famiglia attualmente si trova a Tel Aviv dopo che il suo figlio era scomparso. Wail si trovava a Tel Aviv a lavorare come manovale e ha partecipato alle manifestazioni di protesta contro il massacro contro la popolazione palestinese della striscia di Gaza. La famiglia la settimana scorsa è stata contattata dal sistema carcerario sionista dichiarando di aver bisogno della firma dei parenti per delle urgenti cure medie, operazioni chirurgiche, visto che il ragazzo era stato arrestato. Ma invece si è scoperto, quando sono arrivati a Tel Aviv, hanno scoperto che invece il loro figlio era morto e il cadavere presentava evidenti segni di tortura. La faccia completamente gonfia, le orbite incavate, numerose vertebre rotte, vari tagli e lacerazioni su tutto il corpo. E questo appunto è un ennesimo segnale purtroppo triste che la Palestina non è, come ci vuole far credere qualcuno, un'entità composta solo da Gaza e dalla Cisgiordania, ma la Palestina è tutto quel territorio che va dal fiume Giordano al Mar Mediterraneo, che anche quella che viene attualmente chiamata Israele, in realtà sono territori occupati nel 1948, dove il 20% della popolazione è palestinese, più di 1 milione di palestinesi ci vivono da cittadini di serie Z, e in cui hanno diritto a vivere più di 6 milioni di profughi che sono sparsi nei vari campi in West Bank, a Gaza o anche nella diaspora. E quindi questo è purtroppo un ennesimo segnale che ci ricorda che appunto la Palestina è una ed indivisibile. Leggiamo gli ultimi due aggiornamenti regionali prima di passare agli internazionali. Da Al-Quds, meglio nota come Gerusalemme, vi ricorderete poco dopo la scoperta dei corpi dei tre coloni abbattuti dalla resistenza, i coloni della città di Al-Quds hanno fatto partire una campagna di vendetta che puntava ai bambini l'unico, per fortuna, martire che c'è stato era il giovane Muhammad Abu Qudair, giovane di 16 anni che era stato preso, torturato e bruciato vivo da tre coloni nazisti che sono stati catturati dalla polizia e che avevano confessato anche di aver provato a uccidere, che hanno sia confessato l'omicidio sia pare che avessero provato il giorno precedente a fare lo stesso contro un bambino di 8 anni, ma a quanto pare il principale sospettato, il 29enne Yosef Ben David, a causa dell'instabilità mentale è stato rilasciato insieme agli altri tre girerà a piede libero fino alla fine del processo. Questo ovviamente è il doppio standard. La famiglia, cioè il premier Netanyahu aveva dichiarato che chi aveva commesso questo brutale assassinio sarebbe stato perseguitato, che fosse palestinese o ebreo, perché all'inizio si girava voce che la propaganda israeliana ha fatto girare voce che il giovane Muhammad era stato ucciso dai suoi parenti perché omosessuale, e invece abbiamo visto il doppio standard: mille palestinesi arrestati in un mese senza alcun motivo, e questi tre giovani virgulti esponenti del nazismo sionista che sono stati rilasciati in attesa di processo e che magari se ne potranno ritornare negli Stati Uniti o in Polonia o in Europa o comunque nella loro madre patria da dove vengono in attesa appunto del processo. Ovviamente, cioè, come possiamo dire, ricordiamo anche il doppio standard: il giovane è stato ucciso e torturato e bruciato vivo, mentre i tre coloni gli è stato sparato unicamente un colpo in testa indolore, e i tre coloni rapiti alla resistenza sono stati uccisi umanamente con un colpo in testa, ma vabbè, quanto pare le proporzioni non sono di questo mondo. Una buona notizia sempre da Al-Quds, dove a quanto pare un uomo ha sparato e ferito un soldato sionista lunedì scorso. La notizia viene dal quotidiano Inet, dal quotidiano online Inet, che ha dichiarato che un uomo su una motocicletta ha sparato a un soldato vicino all'università ebraica. Il soldato è un ventenne e è stato seriamente ferito e portato all'ospedale locale per essere curato. Di tutto questo noi ovviamente gioiamo, perché siamo convinti che gli occupanti della Palestina vadano combattuti con le armi civili e militari, e quindi speriamo che non nell'ospedale ci rimanga ancora a lungo e che non ne esca bene. Prima di passare agli aggiornamenti internazionali, vi lasciamo a un altro stacco musicale e ci sentiamo tra qualche minuto. E abbiamo sbagliato la traccia. فوق فوق فوق يسلم لمعليها جبهاوي والهامي فوق Ritorniamo in onda, questa è Radio Cufia, la trasmissione di aggiornamento sulla repressione sionista nella Palestina occupata. Prima di passare alle notizie, potremmo dire dagli esteri, anche se qualcuna riguarda a casa nostra, leggiamo, abbiamo ricevuto proprio ora un... abbiamo letto, è arrivata una nuova agenzia in cui dall'agenzia di stampa Man, secondo cui Hamas stasera ha dichiarato che Israele ancora non ha risposto alle proprie offerte di cessate il fuoco. E se non lo farà, visto che mancano 12 ore allo scadere del cessate il fuoco, che scadrà domani mattina alle 8 del mattino, riprenderanno gli scontri contro gli occupanti. Oggi migliaia si sono riuniti nelle città di Gaza City in sostegno alla delegazione palestinese che sta al Cairo a negoziare un cessate il fuoco di lunga durata e le manifestazioni sono state chiamate da Hamas, sono partite da varie moschee nella striscia di Gaza e sono arrivate alla sede del Consiglio Legislativo palestinese, il cosiddetto Parlamento palestinese, e quindi ricordiamo che le richieste della resistenza sono ovviamente quelle di far terminare l'assedio che ormai dura da 8 anni, l'assedio più lungo nella storia dell'età contemporanea, e di liberare i prigionieri arrestati i prigionieri riarrestati che erano stati liberati con lo scambio in cambio del soldato sionista Shalit, la riapertura del porto e dell'aeroporto di Gaza e la creazione di un passaggio sicuro tra la striscia di Gaza e la West Bank. Quindi al-Masri, che non è chi vi parla, ma è un membro, un parlamentare di Hamas, ha dichiarato che i combattenti hanno ancora le loro dita sul grilletto e i loro missili sono puntati verso le città sioniste. Se Netanyahu non accetta le nostre richieste, non ritornerete nelle vostre case. E quindi ovviamente il nostro sostegno va alla resistenza, l'assedio illegale contro Gaza va a... va chiuso, deve assolutamente cessare. Sono tutte richieste estremamente ragionevoli. Passiamo ora alle notizie internazionali, cioè da casa nostra. Abbiamo letto dei vari esponenti del mondo dell'arte, spagnoli e statunitensi, che si sono schierati a sostegno del popolo palestinese. Ora finalmente gli artisti nostrani si sono anch'essi schierati a sostegno del popolo palestinese, forse dopo che hanno sentito questa trasmissione, magari. E prendiamo la notizia dall'ANSA, ANSA Med, Gaza dai Taviani a Ovadia, lettera a Renzi, mai più bombe. Da scrittori come Dacia Maraini, a registi come Emma Dante, Mario Martone, i fratelli Taviani, ma anche attori come Valeria Golino, Elisabetta Pozzi, Alvaro Warker, oddio, Massimo D'Apporto, Leo Gullotta, Ottavia Piccolo, Pierpaolo Lovino, Monio Vadia, sono 82 gli artisti, coreografi, scrittori, docenti e intellettuali italiani che hanno sottoscritto una lettera inviata al Presidente del Consiglio Matteo Renzi per chiedere un cambio di rotta nella politica internazionale dell'Italia. Chiediamo che il nostro governo, che lei rappresenta, scrivono nel messaggio, si faccia promotore di una campagna internazionale tesa a imporre a Israele un immediato cessate il fuoco, la fine dell'assedio di Gaza e il completo ritiro dalle zone occupate, dando spazio unicamente al dialogo per giungere alla soluzione non più procrastinabile della piena sovranità e rispetto dei diritti del popolo palestinese. Insomma, possiamo dire che gli scrittori israeliani hanno quasi le stesse posizioni, gli artisti italiani hanno quasi le stesse posizioni di Hamas, noi di questo ne siamo ampiamente contenti. Per firmare l'appello, se siete artisti, voi cari artisti che seguite questa radio, potete aderire inviando un'email all'indirizzo firmaappellopacegaza@gmail.com. Invece, sempre dall'Italia, questo è Roma, dove martedì scorso degli attivisti, gli antifascisti e le antifasciste di Roma, dopo il tour che hanno fatto ai castelli sanzionando le controllate di Finmeccanica a Pomezia, sono andati a sanzionare la sede romana della Hewlett Packard, la HP, che è coinvolta a pieno titolo nel sistema d'apartheid sionista, trae profitto dalla guerra e dall'oppressione israeliana e come varie fabbriche in tutto il mondo, fornendo sistemi informatici al Ministero della Difesa sionista e tecnologie per il controllo del movimento ai checkpoint a Gaza e in West Bank, oltre a essere impiegata nello sviluppo tecnologico delle colonie come il progetto Smart City di Ariel. Quindi ovviamente i compagni di Roma e le compagne di Roma fanno appello alla campagna di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni contro l'entità sionista. E noi di questo diamo ovviamente il nostro sostegno e rilanciamo il loro slogan BDS fino alla vittoria. E invece passiamo agli Stati Uniti, dove il Soros Fund Management, cioè il fondo di investimento privato del miliardario George Soros, il terrore degli dei cosiddetti antiimperialisti nostrani, che ora andranno in tilt, ha venduto le sue quote dentro SodaStream. Ricordiamo, SodaStream è un'azienda che fa l'acqua, che fa quei macchinari che fa venire le bollicine all'acqua del rubinetto, azienda di cui volto pubblico è l'attrice sionista Scarlett Johansson, e soprattutto azienda che ha degli bei stabilimenti nella colonia illegale, secondo la legge internazionale, di Maale Adumim, fabbrica che viene spacciata come un posto di convivenza tra lavoratori ebrei e lavoratori palestinesi, quando in realtà vari reportage hanno rivelato appunto che dietro quelle bollicine non c'è tutta questa bella convivenza, ma c'è da una parte uno sfruttamento dell'occupazione e dall'altra uno sfruttamento delle lavoratrici e dei lavoratori palestinesi, come avviene in quasi tutti gli stabilimenti in cui vengono impiegati i palestinesi. E ovviamente non è l'unica, il fondo di Soros viene dopo che altri fondi di investimento, tra cui quello di Bill e Melinda Gates, il fondatore della Microsoft, hanno disinvestito da SodaStream. Bill Gates ha anche disinvestito da G4S, che è una compagnia, una ditta di che si occupa del controllo di un appaltatore privato di sistemi di controllo nelle carceri sioniste. Ovviamente noi non crediamo che l'abbiano fatto per buona volontà, ma l'hanno fatto ovviamente a seguito delle crescenti pressioni che la campagna di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni sta facendo contro di loro e che sta anche appunto mietendo i suoi successi. Infine leggiamo l'ultima notizia prima di salutarvi. In Regno Unito, riguarda la politica del Regno Unito, dove la ministra Sahida Warsi, di origine pakistane, ha rassegnato le sue dimissioni a causa della divergenza di opinioni sulle politiche del governo di Cameron sulla striscia di Gaza. Warsi in un tweet ha dichiarato di essere profondamente dispiaciuta, ma di aver dovuto consegnare le proprie dimissioni scritte al primo ministro perché non può più sopportare la politica del governo su Gaza. Ha poi inviato tutta la lettera la lettera completa, riporta il giornale Al Jazeera, e la ministra appunto si è trovata in disaccordo contro la politica di Cameron, che a 3 giorni dall'aggressione, dall'inizio dei bombardamenti a tappeto sulla striscia, ha dichiarato di condannare fortemente gli attacchi di Hamas contro i civili e sionisti e di sottolineare il diritto di Israele all'autodifesa. C'è voluto praticamente un mese affinché cambiasse posizione, un mese e 1800 morti. Dopodiché ha dichiarato che ha preso una posizione molto, potremmo dire, morbida contro il governo israeliano, dicendo: non uccidete troppi civili e soprattutto non bombardate le scuole dell'ONU. Se dovete bombardare, fatelo in silenzio, uccidete in silenzio, in pratica. Quindi, insomma, qualche politico che si dimette, non come i nostri Renato Brunetta, che vengono addirittura incontrati dall'ambasciatrice palestinese. Questa era l'ultima notizia. Noi ricordiamo che in questi giorni è in corso un presidio permanente contro i bombardamenti della striscia. Il presidio si svolgerà fino a domani dalle 17 alle 20 davanti alla metro Colosseo, e probabilmente sabato sarà ancora là e poi verrà spostato. Noi vi invitiamo a partecipare. Noi vi ricordiamo che non andiamo in vacanza e che continueremo a andare a cadenza bisettimanale su queste frequenze per aggiornarvi su ciò che succede, soprattutto visto che a quanto pare domani il cessate il fuoco terminerà. Ricordiamo velocemente i contatti della radio: www.radiodefault.it per leggere il nostro palinsesto, trovare le nostre repliche e leggere delle nostre iniziative, la nostra pagina Facebook Radio Default per essere aggiornati in tempo reale su ciò che avviene, su ciò che questa radio trasmette e sulle nostre, su ciò che avviene nel mondo. Castelli per la Palestina, per essere aggiornati su ciò che avviene in Palestina oltre questa trasmissione. Ricordiamo di mettere tanti mi piace perché siamo stati superati dalla pagina omologa dei, omologa dei Velletrani. I Castelli romani non possono avere meno sostenitori del popolo palestinese rispetto ai Velletrani, quindi fate girare la voce. L'invito è sempre ovviamente a venire anche nei nostri studios in via Guido Baldi 56 a Genzano di Roma. Noi ci risentiremo lunedì sempre su queste frequenze. Il nostro appello è sempre buona libertà a tutti e a tutti in Italia, ai Castelli romani e in Palestina. E mandiamo la nostra nuova sigla finale dedicata al compagno Fred. Udrub, Udrub, Tel Aviv, colpisci, colpisci Tel Aviv. Buona serata a tutti e a tutti. المقاومة تقصف وتعلن هناك مزيد من المفاجآت. نصف، لقد قصفت تل أفيف.